Agosto, tecniche di sopravvivenza di Morena Rossi. Io sono un automobilista ed essendo un automobilista sono sempre costantemente incazzato come una bestia. E tutti a dirmi, ma se sei già messo così a settembre, ma non le hai fatte le ferie in agosto? È proprio perché le ho fatte che sono messo così. Mi hanno stressato coi bollini. E bollino giallo, e bollino rosso, da quest'anno addirittura bollino nero. E che cosa ci sarà di peggio? L'anno prossimo faranno direttamente un bollino con il teschio, due ossa incrociate e la scritta «Vuoi partire? Sono cazzi tuoi». Buongiorno a tutti, ma soprattutto agli automobilisti in viaggio, proprio oggi che è bollino nero. Siete voluti partire? Beh, la risposta ve l'ha già data Joelle Dix. No dai, poi noi di Agosto Tecniche di Sopravvivenza siamo qua per confortarvi, per aiutarvi, per starvi vicino nel giorno peggiore dell'anno, quello del rientro di questo venerdì 27 agosto. I più fortunati sono al lavoro, almeno hanno già avuto modo di smaltire le arrabbiature delle code dello scorso weekend. E per chi invece si metterà in auto proprio oggi, o comunque questo fine settimana, beh, in bocca al lupo. All'inizio di agosto abbiamo dedicato una puntata alla partenza. Va da sé che alla fine del mese, per cui è bene avere delle tecniche di sopravvivenza, ormai l'abbiamo detto tutti i giorni, non possiamo non parlare del ritorno. È una sorta di lato B, quello dove il più delle volte, se ci pensate bene, si nascondono le più belle canzoni. Una cosa è certa, non avendo scelta, ci si deve almeno provare a sopravvivere. Si può fare! Quali sono le vostre tecniche di sopravvivenza per la partenza? Vero che si può fare, l'importante è non drammatizzare. 800 24 00 24 per raccontarcele in diretta e 349 238 6666 per i vostri sms. Siete in coda proprio adesso, ci sarete tra oggi e domani, non ci sarete affatto perché chi vi toglie più dal mare o dalla montagna avete deciso di non tornare mai più. Però ve lo devo dire, tornare è necessario. Ulisse insegna, ci ha messo un po', ma alla fine pure lui è tornato a casa. E poi, se non foste in coda, dove lo trovereste il pretesto per litigare con la vostra fidanzata o con vostra moglie? Una delle tante ricerche al riguardo ci dice che in coda si litiga soprattutto per colpa di lei, te pareva. Tra i motivi, il finestrino dell'auto aperto mentre l'aria condizionata è in funzione. Questo è un classico, 47%. Il 32% invece si arrabbiano per i piedi sul parabrezza. Le donne invece lamentano la precisione e l'ordine che di solito gli uomini hanno in macchina e che non è proprio la stessa che si ha tra le quattro mura di casa. Alzate la mano se non l'avete mai fatto di arrabbiarvi per i piedi sul parabrezza di lei o per la maniacalità dell'ordine in auto di lui. La ragazza dietro al banco mescolava birra chiara e 7-Up. E il sorriso da fossette denti era da pubblicità, come i visi alle pareti di quel piccolo autogrill, mentre i sogni miei segreti li rombavano via i tir. Dalla stessa ricerca è uscito anche che proprio le soste in autogrill, oltre ad essere degli ottimi spezzaviaggio per sgranchirsi le gambe, sono anche uno dei ricordi più felici dell'infanzia per ben il 38,5% degli italiani intervistati. Io di solito litigo nelle soste agli autogrill, lui non vorrebbe mai fermarsi e quando dopo che gli ho rotto le scatole per chilometri e chilometri, perché devo trattenere la pipì, devo trattenere la fame perché mi voglio fermare, lui ne sceglie uno a caso, ecco, non è mai quello che mi piace, perché c'è autogrill e autogrill, non sono tutti uguali, penso sarete d'accordo con me. Ma rimanendo in zona sosta di viaggio, vi voglio leggere un pezzo di Alessandro Baricco, preso da Barnum, che serve anche ad introdurre il primo ospite di oggi. C'è sempre in classe quello che da grande voleva fare il benzinaio. Il benzinaio? Il benzinaio. Che stupido, pensavi. E invece no, era un poeta. E in modo incomprensibile a noi altri, il meno stupido di tutti. Era uno che, ancora con le braghe corte, già sapeva annusare il profumo del mito. Lo vedeva laddove noi vedevamo solo un distributore e puzza di benzina e mani sporche. Lui vedeva il mito. E noi oggi vogliamo chiedere proprio ad uno che da grande ha fatto davvero il benzinaio come si sopravvive nei giorni di massimo affollamento nelle stazioni di servizio. Come sopravvive chi è al nostro servizio tra una sosta e l'altra. È con noi Tonino Lucchesi, presidente della FAIB, Federazione Autonoma Italiana Benzinai. Buongiorno Tonino. Buongiorno. Buongiorno. Allora, ci racconti come si vive dal punto di vista del benzinaio questo stress da rientro? Ma dal punto di vista del benzinaio lo stress da rientro si vive con estrema fatica, anche con molto divertimento a volte, però con estrema fatica. Ma si vedono quindi situazioni classiche appunto del rientro e quindi gente sì, che... Sì, classiche. Poi guardi, io ho la fortuna di avere sia l'andata che il ritorno. E la sua pompa di benzina quindi... è sulla Ivrea Santhià, vero? Sì. Ok. Andata verso il Monte Bianco. Sì. E ritorno verso Milano, Genova, eccetera. E quindi li vede tutti quelli che stanno per ritornare? E quando partono li vediamo tutti entusiasti, con voglia di spendere. Dal nostro punto di vista fanno tutti il pieno. Mentre invece sul rientro li vediamo 5 euro, 10 euro. Diventano tutti improvvisamente oculati. Sì, poi... con lo stress da rientro proprio. Sì, ma ci sono degli aneddoti particolari? Non so, che lei ha visto qualche tanti, coppia che... che sarebbe difficile, però la cosa più classica sono le carte di credito vuote. Cioè? No, cioè normalmente arrivano a pagare con la carta di credito, provi se va, quando da benissimo che ha speso tutto. Però lo dicono. 4 alla fine dicono, beh, pagheremo i contanti. Eccola, quegli unici che sono rimasti. Sì. Ma lei ha delle tecniche di sopravvivenza per il rientro? Ma più che delle tecniche, dei consigli, di cercare di non tornare tutti alla stessa ora, perché è classico, tutti cercano di sfruttare fino alla fine e poi fanno code chilometriche veramente. Oltretutto il servizio diventa più difficile, più nervoso, i bagni sono sempre intasati, è normale, quando certo. Le strutture sono tarate per X numero di persone, sono 10 volte tante, purtroppo è quello. E lei quando deve partire come fa? Che tecnica utilizza? Io parto sempre di lunedì. È giusto. Il problema non ce l'ho. Quindi il fine settimana sabato e domenica lavoro, lunedì riposo, quindi perfetto. Benissimo, grazie mille Tonino. Prego. Ciao, arrivederci. Buona giornata, ciao. La strada coi tram, coi suoi rumori, le luci dei bar, niente cambia mai. Quando torno a casa, agosto, tecniche di sopravvivenza. Oggi si parla di ritorno, di partenza per il rientro a casa, di fine delle vacanze. In una parola si parla di code. 800 24 00 24 per raccontarci in diretta le vostre tecniche di sopravvivenza e 349 238 6666 per i vostri messaggi. Avete gli stessi problemi dell'inizio di agosto o sono cambiati? Le valigie? Ci avete fatto stare tutto? Dimenticato niente in albergo, nella casa di vacanze, all'aeroporto? Avete già fatto il pieno anche al ritorno come raccontava il benzinaio prima o solo 5 euro? Vi fermate all'autogrill per sgranchirvi le gambe o solo per fare pipì? Col pieno, capo? No. Mi dice dove il bagno, però piscia tutti i chiavi. Allora no, guarda. Le chiavi del gabinetto le diamo solo ai clienti della benzina. Allora, mi fa 5.000 lire e vado in bagno. No, turbino. Lei fa benzina solo per andare al gabinetto, invece dovrebbe essere che chi va al gabinetto è perché sta facendo la benzina. Capisce la differenza, dottore? Vabbè, allora io... facendo la benzina divento cliente automaticamente, poi posso andare in bagno, essendo anche che questo è un luogo pubblico e se uno chiede può andare in bagno. No, dico bene? No. Vede, questa è una questione di principio. Lei dovrebbe venire qui senza neanche pensarci, dovrebbe venire qui per fare la benzina, giusto? O il diesel, quello che è. Poi mentre io faccio il pieno, lei magari si sgranchisce le gambe, il suo diritto, vede il gabinetto, le viene in mente e dice: senta, posso andare al gabinetto? Io le do le chiavi, le pulisco anche i vetri. Faccio 5 minuti di benzina. Dov'è il gabinetto? È qua, mi viene le chiavi dal gabinetto. No, perché lei sta facendo finta. Meno male che si trovano benzinai meno esauriti di questo. Ve ne sono capitati, perché ci vogliono tecniche di sopravvivenza anche per difendersi dagli esauriti. Ma adesso chiediamo ad un altro ospite quali sono le tecniche di sopravvivenza per il rientro, per non fare le code, visto che la puntata è dedicata a questo. Abbiamo con noi il dottor Andrea Leverano, responsabile di Guidami, servizio di car sharing di Milano. Buongiorno dottor Leverano. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Potrebbe essere una buona tecnica di sopravvivenza servirsi del car sharing per andare in vacanza? Beh, sicuramente sì, è un'ottima tecnica di sopravvivenza non solo per andare in vacanza, ma anche per muoversi nella città di Milano e nell'intera di Milano. Poi molti dei nostri clienti che si trovano bene con noi durante tutto l'anno lo usano e sopravvivono benissimo anche durante il periodo estivo andando in vacanza con le nostre auto. Naturalmente, ma in estate avete visto degli aumenti di richieste oppure è un servizio che funziona solo durante l'anno? Beh, diciamo che molti dei nostri clienti utilizzano l'auto anche per spostamenti ricreativi, quindi indubbiamente anche durante il periodo estivo l'utilizzo delle auto rimane alto, anzi tende anche a crescere, soprattutto nel periodo d'agosto, quando alcuni dei nostri clienti ci chiedono le nostre auto anche per andare direttamente in vacanza, chiaramente in località raggiungibili in auto da Milano. Certo, c'è un raggio chilometrico particolare o è un servizio solo milanese? Ma in realtà proprio quest'anno abbiamo lanciato un nuovo piano tariffario che prevede anche gli utilizzi per molti chilometri al fuori di Milano, nel senso per raggiungere altre città d'Italia. Quindi un limite vero e proprio, quell'utilizzo normale che non c'è. Ovviamente magari per oltre i 500-600 chilometri comincia a diventare un po' più scomodo. Certo, come funziona? Dunque, allora, il servizio Guidami, che noi gestiamo come ATM di Milano, ha una novantina di macchine a Milano, sono dislocate in circa 60 parcheggi che noi abbiamo in modo capillare su tutta la città. Il funzionamento è molto semplice, nel senso che chiunque è interessato va sul nostro sito che è www.guidami.net o chiama il nostro call center che è 848-833-000 e chiede di essere iscritto, di iscriversi al servizio, quindi firma un contratto con noi, a quel punto riceve una smart card che gli consente di utilizzare le macchine esattamente come se fossero auto di proprietà. Ah, quindi, ho capito. Quindi ci si iscrive semplicemente con una telefonata o con... Sì, in realtà si fa una telefonata o si va sul nostro sito, ancora meglio, e si scarica un contratto che viene compilato assieme a alcuni documenti, dopodiché nel giro di qualche giorno si riceve a casa la smart card con cui di fatto si riesce a salire sulle auto e utilizzarle come se fossero le proprie. Non si deve essere milanesi per fare questo? No, noi siamo all'interno di un network ICS, che è un network nazionale dove ci sono altre 9 città in Italia, tra cui Roma, Torino, Genova, eccetera, dove in realtà ci sono altre società che gestiscono servizi come il nostro. Quindi noi addirittura con le nostre tessere mandiamo i nostri clienti a usare le auto anche a Torino, appunto a Genova. Ah, ho capito. Necessità. E c'è un identikit particolare dei vostri abbonati, cioè si può dire che rispondono ad un profilo di un certo genere o c'è di tutto? Più si va avanti più è diversificato. Diciamo che lo zoccolo duro sono persone comunque di età media, tra i 25 e 30 fino ai 50-55 anni, quindi in età lavorativa. Abbiamo visto che di solito la cultura è media, medio-alta, e anche un po' l'attitudine e l'attenzione alla spesa abbastanza flessibile, nel senso che comunque sono persone abbastanza aperte all'innovatività dei sistemi e quindi ha più il concetto di pagamento di un servizio, l'utilizzo, più che a quello del possesso, del fastidio. Certo, un'auto. Certo. Lei ha una sua tecnica di sopravvivenza per le partenze? Ma sì, diciamo la verità, nel senso che io sicuramente privilegio, quando mi devo spostare da Milano durante l'estate, privilegio altri mezzi di trasporto, poi mi trovo l'auto quando arrivo a destinazione, di solito faccio così. Ho capito. Quando sono a Milano uso ovviamente, o nei fine settimana uso ovviamente il car sharing. Giustamente, grazie mille dottor Leverano, grazie. Grazie a voi, salve. Buona giornata. Buona giornata. Sì, può fare! E voi siete in coda proprio adesso? Raccontateci i vostri stress da coda, da rientro al 349-238-6666 o per parlarci in diretta delle vostre tecniche di sopravvivenza per il rientro 800-24-0024. Abbiamo sentito adesso il dottor Leverano che ci raccontava del car sharing come soluzione quindi alle code. Ma un'altra soluzione, visto che forse ormai già ci siete lì con la vostra auto ad ascoltare, oltre ad ascoltare gli aggiornamenti sulla viabilità, novità che ci saranno tra poco, potreste anche consultare Google Traffico. Basta accedere dal vostro cellulare a Google Maps, fare clic sull'icona traffico e all'interno delle mappe, delle quadrate delle mappe, e lì capire quale colore hanno i vari tratti di strada, perché si colorano in base appunto al genere di traffico. Se non ci sono aree colorate, significa che i dati pervenuti non sono sufficienti per azzardare nessuna previsione, e le informazioni arrivano a Google dagli enti che monitorano la viabilità italiana, ma anche da un sistema di crowdsourcing, ovvero dalla condivisione dei dati, la risorsa della folla, il crowdsourcing. Perciò se anche voi avete un iPhone, uno smartphone, potete mandare i vostri dati, potete usare Google Traffico, che fra l'altro è anche integrato a Google Maps per mobile e di conseguenza nel sistema di navigazione satellitare. Ecco, in questo modo si può pianificare e modificare l'itinerario direttamente dal telefono cellulare, tenendo conto della viabilità, dei bollini rossi, gialli, neri e tutti i colori che ci possono essere. Ma detto così sembra qualcosa di difficile, ma pare sia semplice, io non l'ho mai usato. L'importante è che non vada a complicare la vita già di per sé complicata dalla fine delle vacanze. L'estate sta finendo e l'anno se ne va. Sto diventando grande anche se non mi va. L'estate sta finendo. 10 e 27 di venerdì 27 agosto. Oggi Agosto Tecniche di Sopravvivenza si sta occupando del rientro, della fine delle vacanze. L'estate sta finendo e stiamo tornando tutti a casa. 800 24 00 24 per raccontarci del vostro rientro, magari quello di oggi, quello che avete fatto la settimana scorsa, quello che avete fatto anni fa, il rientro traumatico in macchina, in direzione casa. E 349 238 6666 per i vostri messaggi. Mi scrivono, non è firmato, però dice: classico litigio da coda con il mio fidanzato, causa strombazzamento da clacson appena vede la fila, è affetto da sindrome milanese. Invece Valeria da Roma mi dice: io sono abituata alla coda sul raccordo anulare, la mia tecnica di sopravvivenza è il giornale di gossip sempre sul sedile di fianco che sbirci in continuazione. Oppure Livia da Reggio Calabria dice: grande Morena, Google Traffico è la tecnica di sopravvivenza, una volta provato mai più senza. E voi, quali sono le vostre tecniche di sopravvivenza? Prenotatevi per parlare con noi, per raccontarcele magari in diretta se adesso siete in macchina, all'800 24 00 24 o i vostri messaggi al 349 238 6666. Dateci un segnale, cosa sta succedendo nei vostri abitacoli, avete litigato, state litigando, ci sono le code ai caselli, non so, siete riusciti a mettere la terza, magari la coda c'è già oppure non c'è ancora, invece state viaggiando tranquillamente. Però prima di lasciarvi agli aggiornamenti della borsa, vi voglio dare la frase del giorno, che è di George Bernard Shaw e che forse può servire a lenire il dolore di questo ritorno. Un uomo percorre tutte le strade del mondo per trovare ciò che gli serve, ma deve tornare a casa per scoprirlo. Agosto, tecniche di sopravvivenza. 800 24 00 24 per parlare con noi e raccontarci del vostro rientro, delle code che state facendo, che avete fatto anche anni fa, del fatto che tornare a casa dalle vacanze può essere traumatico, perché si è in macchina, si devono affrontare chilometri infiniti e non c'è nemmeno il premio della vacanza alla fine, ma si torna semplicemente a casa e quindi non è come all'andata. Voi come le gestite le code e come le gestite i rientri? 349 238 6666 per i vostri messaggi. Per me il rientro è gioioso, dice Maurizio. Per me il rientro è gioioso, forse sono contro tendenza, ma dopo pochi giorni di vacanza la casa mi manca. Oppure Luis mi dice: rientro drammatico nel 90 in Croazia, 2 giorni di coda perché era appena scoppiata la guerra, arrivato con la macchina tutta ammaccata. Oppure non si firma, ma dice: tecnica di sopravvivenza, telefonate alla mamma o alla suocera che, siccome sono telefonate fiume, mi aiutano a sopportare la fila sul raccordo. Ma adesso parliamo con Aldo da Milano. Ciao Aldo. Ciao Morena. Ciao, buongiorno. Com'è buongiorno. Il tuo modo di affrontare il ritorno? Beh, come dicevo prima alla tua collega, noi abbiamo da qualche anno comprato il camper. Uh-huh. E questo è diventato poi, non l'abbiamo fatto per quello chiaramente, ma ci siamo resi conto che è diventata anche una tecnica di sopravvivenza per il traffico, perché i rientri, le partenze, a parte che cambia un po' tutto il modo di organizzare il viaggio, si può anche decidere di arrivare più tardi, come noi quest'anno in Scozia siamo arrivati un giorno dopo perché abbiamo deciso di fermarci un giorno in più da un'altra parte. E quindi il camper? Anche rientri, sono, cioè, durante le code si vive la coda in una maniera completamente perché diversa. Lo gestisci meglio, nel senso che hai lo spazio per muoverti, intendi, cioè, quello? Lo spazio, soprattutto perché noi abbiamo due bambine di 9, di 8 e 11 anni. Io ricordo un aneddoto rientrando dall'Alto Adige qualche anno fa, coda clamorosa, era un rientro da una settimana bianca, era luna e quindi guardavo le altre auto con gente che imboccava i bambini sui seggiolini in questa, e con un po' di altezzosità poi guardavo dietro di me la mia moglie seduta al tavolo comoda che serviva l'insalata, la mozzarella, ovviamente erano legate, però è veramente buona tecnica di sopravvivenza, sì, vero, per le code riduce molto anche lo stress tra moglie e marito, e ci credo lo spazio anche vitale, insomma, durante la coda, cioè, potersi fermare e avere la casa dietro, insomma. Certo, grazie mille Aldo. Niente, Moreno. Ciao, arrivederci. Sì, può fare! E nella storia le code come venivano gestite? 27 agosto 413 avanti Cristo. Nicia e Demostene decidono di lasciare l'assedio di Siracusa. Rientro in patria, come da tradizione, proprio alla fine di agosto. 27 agosto 1966. Mancano solo due giorni all'ultima esibizione in pubblico dei Beatles al Candlestick Park. Gli abitanti di San Francisco, che erano in vacanza, si affrettano a rientrare. 27 agosto 1903. L'indomani viene fondata a Milwaukee la Harley Davidson. Niente code da rientro per tutti gli Easy Rider. Oggi ad agosto, tecniche di sopravvivenza, si sta parlando del ritorno, del rientro, del viaggio che sta per finire, che vi sta portando a casa. Come lo gestite? Se come all'andato, se c'è un modo differente di vedere la cosa. 800 24 0024 per raccontarci delle vostre code da rientro, o 349 238 6666 per i vostri messaggi. Abbiamo appena sentito adesso una delle canzoni della colonna sonora del film Easy Rider. Prima avevamo al telefono con noi Aldo, che ci diceva che per lui la tecnica di sopravvivenza per le code è il camper, quindi avere dello spazio da gestire durante le soste infinite. Ma le due ruote sono anche una tecnica di sopravvivenza per chi non vuole trovarsi imbottigliato. Batte la Vespa! Hai la spinta? Dai! Devo attaccare? Oh, fa come te pare! Non rientra tardi! Forse dipende dalle due ruote, dalla fatica che si vuole fare. Questo era Gasman nel sorpasso quando supera un ciclista. Forse la bicicletta non è proprio il mezzo adatto, ma la motocicletta potrebbe esserlo. È con noi al telefono uno che, come un moderno Marco Polo, ha sostituito il cavallo con la motocicletta per coronare il suo sogno, quello di fare il giro del mondo. È il viaggiatore solitario e scrittore Marco De Ambrogio. Ciao Marco! Ciao a tutti! Ciao! Allora, qual è la tua tecnica di sopravvivenza per le code, visto che utilizzi un mezzo di trasporto così un po' privilegiato? Beh, diciamo che le due ruote ti permettono comunque di sgattaiolare e muoverti in maniera molto più agile rispetto che con una vettura. Le mie tecniche di sopravvivenza, la cosa fondamentale è tanta prudenza comunque alla guida, occhio insomma agli ingorghi, e tenere sotto controllo la situazione, e soprattutto, come dicevo, le due ruote ti permettono di muoverti in ogni condizione e di provare un senso di libertà illimitato. Ma tu hai sempre avuto questo amore per la moto, per la motocicletta? Sì, io fin da ragazzo ho sempre sognato di comprarmi una motocicletta, e quando ho avuto quando sono diventato maggiorenne, insomma, ho cominciato a cambiare varie moto, finché un bel giorno ho deciso di realizzare, come dicevi tu prima, il mio sogno nel cassetto, che era quello di fare il giro del mondo in moto, che poi ho fatto da solo, facendo 57.000 chilometri intorno al mondo con la mia fedele due ruote. Caspita, ma sempre la stessa moto, sì? Sì, diciamo che questa due ruote ha già fatto un giro del mondo, poi ha fatto una Venezia-Pechino sull'antica via della seta nel 2004, poi un lungo viaggio da Milano a Kabul in Afghanistan in tempo di guerra per portare un messaggio di pace, una donazione a favore di Emergency, e mille altre avventure. Insomma, adesso però è esposta nella sala di casa mia perché è andata in pensione. È stanca anche lei. Stanca. Ma le tue avventure invece continueranno? Sì, sicuramente. Io ogni anno... questa è la mia vita, l'avventura è il motore portante della mia esistenza e la mia sete di scoperta e di conoscenza non ha limiti. Mi piace rimettermi in gioco in ogni situazione per conoscere mondi nuovi, paesi nuovi, per potermi appunto arricchire da ogni esperienza. Certo, ma come, per esempio, come hai scelto la prima destinazione? Cioè, come ti è venuta l'idea di fare proprio il giro del mondo? Ma il giro del mondo, probabilmente la colpa è stata di mio padre quando ero ragazzino, che mi faceva solo leggere libri d'avventura da Emilio Salgari e altre mille avventure bellissime. Già, beh, colpa o merito, insomma? No? Merito, sì, no, sicuramente merito, nel senso che ho deciso appunto di realizzare questo sogno dopo aver fatto mille tipi di attività nella mia vita e appunto di decidere di essere un uomo libero, perché con questo tipo di vita che faccio, appunto, come tu dicevi prima, io scrivo libri e mi occupo di viaggi in solitaria, mi sento a tutti gli effetti un uomo libero, libero di decidere della mia esistenza e di poter vivere una vita che mi appaga in ogni secondo che passa. Certo, è una tecnica di sopravvivenza che vorresti dare così ai nostri ascoltatori che si stanno mettendo in macchina adesso o mettendo in moto, perché no, voglio dire, qualcuno è anche partito con la motocicletta, così per sul ritorno, quale tecnica di sopravvivenza ti piacerebbe dare? Ma la mia tecnica di sopravvivenza è quella di non porsi limiti, di vivere la propria vita e il proprio viaggio, sia che sia un viaggio lungo di mesi o anche solo di poche ore, di vivere ancora mantenendo quella sensibilità nei confronti della natura, dell'approccio con gli altri, di fidarsi degli altri e di fidarsi di quello che ti porta il viaggio, cioè la scoperta, e di essere appunto ottimista, di non pensare al peggio, perché io sento tante volte tanti viaggiatori che pensano: ma non vorrei andare in quel paese perché chissà magari cosa mi capita, prendo una malattia. Io sono un grande ottimista, direi di affrontare il viaggio e il viaggio di rientro, qualunque esso sia, con il sorriso sulle labbra e con ottimismo e pensando sempre che capiteranno solo cose belle. Ma fantastico, grazie mille Marco. Le tue avventure le troviamo nel Giro del Mondo in Moto, che è il primo libro che hai scritto, e l'ultima, esatto, avventura. L'ultimo libro che ho pubblicato si intitola Destinazione Afghanistan, sì? In moto da Milano a Kabul per portare un messaggio di pace, ed è l'ultimo libro che ho pubblicato. Bene, grazie mille e allora buon viaggio per il prossimo viaggio che avrai in programma. Grazie a voi, un abbraccio. Agosto, tecniche di sopravvivenza. 800 24 00 24 per raccontarci del vostro rientro. Spero che le informazioni sul traffico non vi abbiano così buttato nello sconforto più di quanto non lo siate già magari adesso che siete in coda e siete in macchina. 349 238 6666 per i vostri messaggi, ne arrivano veramente di divertenti. Ce n'è uno di Antonella che dice: è difficile sopravvivere al rientro quando siamo in fila come noi alla dogana a Livigno e mio marito si è tolto le scarpe, si muove. Che faccio? Lo uccido? Oppure c'è Matilde che dice: evviva, torno dai miei allievi. Matilde è insegnante di scienze all'Istituto Tecnico. Ce ne sono tantissimi. Un altro è: la mia tecnica di sopravvivenza in coda, fare le ferie a casa, 5 minuti di bici e sono al lago. Dario di Desenzano. Oppure ciao Morena, la mia tecnica è cedere il volante a mia moglie quando c'è coda e farmi un sonno beato. Paolo da Como. E adesso sentiamo Fabrizio dalla provincia di Ancona. Ciao Fabrizio. Ciao Morena, buongiorno. Ciao, buongiorno a te. La tua tecnica di sopravvivenza. Allora, guarda, io la tecnica di sopravvivenza che ho sviluppato negli anni è quella di cercare di partire agli orari più improbabili, che vuol dire alle 2 di notte, alle 3 di notte, all'1, costringendo mia moglie a sveglie notturne, depositandola in macchina mentre dorme ancora e partire, e mi è sempre andato abbastanza bene. Perché bisogna anche stare attenti poi con il sonno e quindi saper guidare. Io per fortuna, faccio circa 55.000 km l'anno, quindi guidare mi piace, per cui non ho un problema. Sei abituato. E invece il trauma più grosso è stato una quindicina d'anni fa con Salerno-Reggio Calabria, 12 ore per fare circa 600 km, una coda di 60 km. Mamma mia. È stata l'esperienza più allucinante della mia vita, che non auguro a nessuno. Ti ha segnato. Non a mio peggior nemico. Sì, assolutamente. Adesso dove sei? Sei in macchina? Sei in coda? Adesso sono in macchina per lavoro. Quest'anno le code per fortuna le ho evitate, ho già fatto le mie vacanze, per cui è andata bene. Bene, niente stress quest'anno. Grazie mille, ciao Fabrizio. Figurati, grazie a voi. Ciao. 800 24 0024 per parlare con noi e raccontarci delle vostre code, delle vostre esperienze allucinanti, o 349 238 6666 per i vostri messaggi. Una cosa che ci sentiamo di dire, anche se è un po' trita e ritrita, è prudenza. In auto ci si irrita facilmente in queste situazioni, il caldo, le code, la fine delle vacanze. Tenete i nervi sotto controllo. Ma quale semaforo? Lo vedi che è verde? Sì, ma poi diventa giallo, frega! Mamma! Oh. Uè, te, pistola, ma cos'è che combini? Vedi il semaforo verde e ti blocchi, sei matto! Scusi tanto, signore, lei c'ha ragione. Infatti il semaforo era verde. Ma siccome la mia fidanzetta, la mia topola, mette il giallo, mette il verde, ci siamo incasinati. Ma cos'è che dice questo? Ha detto che abbiamo ragione noi, caro signore, eh? Ah, sì, eh? Sì. Ecco, è semplicissimo, lei ci ha tamponato e chi tampona paga, eh? Ci sono almeno 173.000 lire di danno. Anche meno, lasci perdere. Che papà dà? Vieni, Nicola, non vale la pena di discutere. Vai, esci. Che fai? Scappi, cagone! Ti ha detto cagone. Torniamo indietro. Ma quale cagone? Avrà detto cafone. Ha detto cafone, io confermo. Da un sondaggio condotto su quasi 1.400 automobilisti dalla società di assicurazione inglese Sheila's Wheels, emerge che le temperature più elevate accenderebbero il caratterino maschile. Il 21% dei maschi infatti conferma di diventare molto più aggressivo al volante durante i mesi caldi. Ma la cosa che fa davvero ridere, neanche sorridere, ridere dovrebbe farci arrabbiare, ma vogliamo prendere così il lato, un po' così, la parte più grottesca di questo dato, è che sempre da questo sondaggio emerge un bel 29% degli uomini che si distrae per gli abiti succinti e il look estivo delle donne che incontra per strada. Le temperature si alzano, le gonne delle donne si accorciano, le scollature precipitano e gli uomini vanno a sbattere con la macchina. Vabbè, non c'è bisogno di aggiungere altro. Dopo queste notizie che sembrano comiche, poveri uomini, parliamo con un comico vero, perché se c'è chi sta partendo per andare a casa, c'è anche chi sta partendo per andare a fare uno spettacolo. È Daniele Raco, comico di Zelig. Ciao Daniele. Eccoci qua. Guarda, m'hai beccato proprio. T'ho beccato praticamente. Anche tu in partenza, però non in partenza per il ritorno, ma in partenza per l'andata nel tuo caso. Per l'andata, come sempre, si va a fare spettacoli prevalentemente in auto, per cui proprio sono giusto. Sei giusto. Ti stai quindi beccando delle code in questo momento? In questo momento no, però diciamo toccando ferro, perché danno la situazione abbastanza bollino super nero, bollino super nero, attenzione Daniele. Non lo volevo dire, cercavo delle altre parole. Senti, ma il fatto è che adesso non ci sia coda, lo sai che non vuol dire nulla, no? Che dietro la curva poi ti becchi la fila di... Ma sorvoliamo su questa cosa, se non lo dici non accade. Ah, va bene, ok, superstizioso. Questa è la mia tecnica di sopravvivenza. Ecco, tecnica di sopravvivenza. Ti è mai capitato qualcosa in una partenza di ritorno da qualche vacanza? No, ma sai, io col lavoro che faccio sono prevalentemente un osservatore, perché mi diverto a osservare gli altri che partono per le vacanze, perché mediamente quando gli altri vanno in vacanza io comincio a lavorare. E l'estate è un po', insomma, voglio dire, è calda in tutti i sensi per noi, no? Eh sì. E quindi io vedo i miei vicini che fanno le partenze intelligenti. Di solito sono quelli che sono in coda già sul pianerottolo. Con le valigie. Con le valigie già in coda dal portone, perché fa tutti la partenza intelligente quando non parte nessuno. Il problema è che lo fanno tutti. Giusto. Ma senti, ma per il ritorno, ti è mai capitato, visto che sei un osservatore, di vedere dei musi lunghi, delle facce particolari, gente che litiga? Il ritorno dalle vacanze penso che sia sempre traumatico. Io purtroppo ti so dire poco, perché l'ultima volta che sono andato in vacanza è stato il mio viaggio di nozze del 99, quindi voglio dire... Ah beh, allora è un non po'... Non sono un grandissimo vacanziere, però c'è tante di code, vedo proprio la gente disperata, i bambini distrutti dalla fatica, poi si torna sempre all'ultimo, per cui quelli domani magari devono andare a scuola, sono certo. Tristissimi. Sì, perché poi c'è di mezzo anche lo stress del rientro, non solo la coda. Sì. Infatti consigliano di rientrare, possibilmente, sentivo ieri in televisione, rientrate una settimana prima della fine delle ferie. No? Certo. Sei mesi di ferie, a me piacciono questi servizi, dove ci considerano tutti miliardari, no? Cioè state tre giorni in vacanza e la settimana prima rientrate. La settimana prima rientrate, perché così ci si adatta, ci si prepara piano piano al rientro al lavoro. Certo, ma dove stai andando a fare la serata questa sera? Allora, questa sera siamo nella provincia Granda, per cui siamo a Chiusa di Pesio, provincia di Cuneo, uh-huh. Un bellissimo posto, tra l'altro, per la pesca alla trota. No, lo dico così, uh-huh. Informazioni. No, ma è utilissimo. Non voglio venire allo spettacolo, che però sarà bellissimo, perché ci saranno Gianni Cinelli, Davide Pagnate e il sottoscritto, quindi insomma un trio di comici potenti, quindi una bellissima serata sicuramente. Benissimo, grazie mille allora Daniele per la tua testimonianza di partenza. Grazie a voi, finora coda non ce n'è, cosa faccio? Se trovo la coda ti telefono? Minimo. Ciao, grazie. Ascoltaci. Ciao, grazie a te. E finisce qui la storia di noi due. La tua strada della vacanza segna già la tua lontananza. Agosto, tecniche di sopravvivenza, si parla di rientro, di fine delle vacanze, di code, ma è arrivato il momento delle nostre tecniche di sopravvivenza. Penna e foglio. 1. Le vacanze prima o poi finiscono per tutti. Non c'è bisogno di fare tante storie. 2. Se proprio non riuscite a farvene una ragione e volete rimanere al mare, sappiate che anche aprire un ciringhito sulla spiaggia non rende più come una volta. 3. Ricordate che i complimenti per la bronzatura ve li faranno solo se ritornate alla pallida vita d'ufficio. 4. Fatelo almeno per le vostre piante. Il ficus Benjamin ha già chiamato il telefono azzurro. 5. Milioni di italiani che si mettono in coda per tornare proprio nello stesso weekend non possono sbagliarsi. Prima di salutarvi vi voglio leggere l'ultimo SMS. Un ultimo SMS dice: mi trovo sulla A1, direzione Perugia, altezza Caianello. Traffico scorrevole. Tecnica di sopravvivenza, manicure, mentre mio marito guida. Saluti a tutti, Marianna e Gerardo. Ringrazio in redazione i miei compagni di viaggio in questo venerdì, senza code almeno per me, Vittoria Mussini e Laura Faggini in redazione e Roberto Scaltritti in regia. Buon weekend, a lunedì per l'ultima settimana di agosto, tecniche di sopravvivenza. E se siete in coda, non prendete vela troppo. È difficile restare arrabbiati quando c'è tanta bellezza nel mondo. A volte è come se la vedessi tutta insieme ed è troppo. Il cuore mi si riempie come un palloncino che sta per scoppiare. E poi mi ricordo di rilassarmi e smetto di cercare di tenermela stretta. E dopo scorre attraverso me come pioggia. E io non posso provare altro che gratitudine per ogni singolo momento della mia stupida vita.